Wish e Style da T.A. e Graal per DJ Afghan e Cry. Mixtape sana in coscienza. Bella Quentin per il beat. Blow, blow. Vivo stati di sana incoscienza. Vivo stati di sana incoscienza. Sana incoscienza. Estate, c'ho fame, sento un odore bestiale. Voglio qualcosa di dolce, ma non ho soldi. Porco dio maiale, il merendaio, il furgone aperto. Finiscono di caricare. Il tipo rientra, guanta una guantiera e inizia a scappare. Ti pare che da sbonnati la sera non lo prendiamo per vizio. Appostati al secondo giro, eravamo ancora all'inizio. Passano gli anni, aumentano i grammi, cresceva anche la fame. Prima eravamo in due, poi furono troppo. Le bocche da sfamare, meglio abbondare che bandire a un bandito di mangiare. Quando il colpo era grasso, a fine pasto vedevi cornetti volare. Tant'è che ormai cacavo zucchero per il troppo glutine. Men che non si dica far colazione, divenne un'abitudine. Alle 3:15 era l'ora per il rifornimento all'hotel. Immagina la guida, sto giro ce la facciamo io Miguel. E mentre cornetti e iniezione già davano la loro assuefazione. Organizzazione, farci la voce ed eravamo diventati un plotone. Fanne uno al volo senza scendere, che non ho tempo da perdere. Fa caldo e voglio un'anguria perché mi voglio riprendere. Giravo con una pancia a mo' di lula, oh. Finché di mezzo non si mise anche la pula, sto. Sti cazzi col dottore, seguì l'idea dell'incursione. Un salto oltre la recinzione, mi sippo saltò la colazione. Infine andai di persona in sede tipo al 40° viaggio. La storia finì che finimo, quando finì col rischiare linciaggio. Ma se vuoi fuoco dammi solo 2 euro di benza. Vivo stati di sana incoscienza, soldi facili scaricati agli sportelli a credenza. Vivo stati di sana incoscienza, ho adescato baccalà pure senza una lenza. Vivo stati di sana incoscienza, vuoi fumare dammi 2 cartine la facciamo immensa. Vivo stati di sana incoscienza, giro per Ferrara alterato ma non posso farne senza. Vivo stati di sana incoscienza, testa alta al di là di quello che la gente pensa. Vivo stati di sana incoscienza. È un giorno come un altro, 20 di novembre. Apro il primo occhio, l'altro non ci riesce. Resto steso a letto, ancora un quarto d'ora. La giornata è appena iniziata e già m'annoia. Devo porre un rimedio, ne faccio uno serio. Così grande che mi alieno, inizio dell'assedio. Tra me e il mio alter ego, come finirà non so, ma vedremo. Nel frattempo gremo, adesso accendo lo stereo. Voglio più volume per quello in cui credo. Non so se mi spiego, chissà di cosa parlo. Lo capisce appieno. L'ho fatto così spesso che giro per casa con un ghigno sceno. Si è fatto mezzo di, sono in chimica tua palla. Oggi dovrei studiare, sono ancora in Vestaglia. Ne faccio un'altra, tanto il primo appello è un mese di distanza. Squillo al ciel, stai lo dice. Ai vina qua fa un rap, porta del TH. Ok, mangio qualcosa in fretta e furia. Salgo in macchina a 130 su una Matil. Sembra di stare sopra una Jaguar in un quarto a Ferrara. Bella style, tutta posta che ne appare. La bubana fa fuma, che sto pezzo lo facciamo in simultanea. Lo portiamo dalla piano, fatti di incoscienza insana. È il mister di Cry, uomo che ci chiama. È il macello che si aggira tra T.A. e Gambulaga. Se vuoi fuoco dammi solo 2 euro di benza. Vivo stati di sana incoscienza, soldi facili scaricati agli sportelli a credenza. Vivo stati di sana incoscienza, ho adescato baccalà pure senza una lenza. Vivo stati di sana incoscienza, vuoi fumare dammi 2 cartine la facciamo immensa. Vivo stati di sana incoscienza, giro per Ferrara alterato ma non posso farne senza. Vivo stati di sana incoscienza, testa alta al di là di quello che la gente pensa. Vivo stati di sana incoscienza.